24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la conclusione del summit G8 di Deauville con la promessa di un pacchetto di 40 miliardi di dollari per la primavera araba. Gli otto grandi hanno intimato a Muammar Gheddafi di lasciare la Libia. Oggi torneremo sull'arresto del criminale di guerra Ratko Mladic, portandovi a Srebrenica, teatro di uno dei più efferati massacri. E per gli spettacoli la nostra intervista a Raffaele Gualazzi, l'italiano classificatosi secondo allo Eurovision Song Contest. Ce sarà 1 miliardo d'euro per l'Egitto e la Tunisia. La primavera araba, la Libia e la crisi economica, questi temi sui quali il G8 di Deauville in Francia ha prodotto i principali risultati. Il presidente di turno, il francese Nicolas Sarkozy, che state ascoltando, ha annunciato un pacchetto da 40 miliardi di dollari per sostenere la primavera araba, cominciando da Tunisia ed Egitto. Sul fronte libico gli otto hanno intimato a Muammar Gheddafi di lasciare il paese. La Russia si è offerta di mediare per facilitarne l'uscita di scena. Dalla vertice è giunto pure un appoggio alla linea di Barack Obama per la pace in Medio Oriente tra israeliani e palestinesi. Per quanto riguarda la crisi economica, infine, i paesi del G8 hanno affermato che la ripresa globale si sta rafforzando, anche se rimangono rischi a partire dall'aumento dei prezzi delle materie prime. E il premier italiano Silvio Berlusconi è intervenuto nella conferenza stampa finale sulla questione della primavera araba. Sentiamo le sue parole. Abbiamo parlato di primavera araba e abbiamo preso l'impegno ad un supporto importante perché il viaggio verso una piena democrazia possa essere supportato da uno sviluppo economico adeguato. E ora più in generale sulle conclusioni di questo G8 francese sentiamo il servizio. Il nome è il programma Deauville Partnership, oggi rivolta principalmente a Egitto e Tunisia, ambizione coprire l'intero Nord Africa e il Medio Oriente, motore di un'area dal comune destino. Il gesto i leader del G8 l'hanno fatto, è il momento del sostegno economico e finanziario delle primavere arabe per impedire che l'instabilità non blocchi le riforme politiche. Sul tavolo c'è l'impegno a fornire 20 miliardi di dollari attraverso le banche multilaterali di sviluppo, inclusi 3 miliardi e mezzo della Banca Europea degli Investimenti per Egitto e Tunisia entro il 2013. E poi ci sono gli aiuti bilaterali, 1 miliardo dagli Stati Uniti all'Egitto e 2 miliardi per altri paesi della regione, in buona parte annullamento o conversione del debito, 1,2 miliardi dall'Unione Europea. Si punta al sostegno finanziario immediato, ma anche di più sul finanziamento di progetti di impresa, dalla micro alla media. Il G8 ha comunque la coscienza sporca. Dal 2002 l'aiuto allo sviluppo al Nord Africa è diminuito di un terzo. Nello stesso tempo la regione ha pagato la stessa cifra in prestiti. Questa volta il sostegno ha una condizione: rispettare gli impegni di apertura alla democrazia. Da Radio Cora Antonio Pollio Salimbeni, per Radio 24, il Sole 24 Ore, Deauville. Tra i temi in agenda alla G8 anche la questione degli aiuti allo sviluppo, e ascoltiamo allora il duro j'accuse al nostro paese da parte del vice segretario di ActionAid Italia, Luca De Fraia. Lo ha intervistato Romolo Napolitano. L'Italia nel 2010, cioè l'anno scorso, ha raggiunto lo 0,15% del rapporto aiuti ricchezza nazionale, quindi siamo nelle ultimissime posizioni delle graduatorie, delle classifiche internazionali, e siamo tra i maggiori responsabili del ritardo complessivo, in particolare per la regione Europa. Quanto versano invece alla causa gli altri paesi sviluppati? Importanti paesi come la Gran Bretagna e la Francia, che oramai viaggiano sopra lo 0,50% della ricchezza nazionale, quindi decisamente di più. L'Italia in termini assoluti investe circa 3 miliardi di dollari, Francia, Gran Bretagna e Germania oramai sono vicino o superano i 10 miliardi di dollari l'anno. Per il Tribunale Speciale di Belgrado, Ratko Mladic è nelle condizioni di essere trasferito al Tribunale Penale Internazionale dell'AIA. L'avvocato difensore di Mladic, Milos Salic, ha annunciato che lunedì prossimo presenterà ricorso. La notizia dell'arresto di Mladic è stata accolta con molta emozione a Srebrenica, teatro di una delle peggiori stragi dello scorso secolo. L'arresto di Mladic non è stato accolto da festeggiamenti tra le donne di Srebrenica. Ci racconta così Azra Ibrahimovic, che aveva 13 anni quando fu costretta a scappare da Srebrenica. Il 9 luglio 95 i serbi le uccisero il padre e il fratello, assieme ad altri 8.000 morti accertati. Tutto il periodo di questi 16 anni